La Lega Consumatori, l'avvocato Maria Stella Anastasi ne è il vicepresidente. Buongiorno, siete soddisfatti di come è finita la vicenda o ci sarebbe ancora qualche cosa da chiarire, avvocato? Buongiorno, no, diciamo che allora noi siamo sicuramente soddisfatti, anche perché quello che volevamo appunto ottenere non è che noi volessimo una sanatoria, sicuramente chi aveva percepito indebitamente questa somma la doveva restituire, ci mancherebbe, non volevamo difendere qualcuno che avesse percepito indebitamente delle somme. Quello che avevamo contestato, anche scrivendo direttamente al Ministero e facendo presente il problema, era proprio, come dire, il fatto che la norma all'epoca e l'offerta del bonus bebè era poco chiara, quindi poteva aver ingenerato già all'epoca dei dubbi tra il reddito netto e il reddito lordo. Quindi probabilmente qualcuno, in maniera sicuramente un po' superficiale, aveva percepito l'importo. Ci mancherebbe, se lo doveva restituire, lo doveva restituire, ma quello che ci avevano fatto notare gli utenti erano proprio le famose sanzioni amministrative che potevano essere applicate, la perentorietà della richiesta che era arrivata attraverso la comunicazione appunto delle direzioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate e quindi comunque la possibilità che veniva ventilata anche di eventuali sanzioni penali, come spiegava prima la dottoressa Melis, nel caso fossero state rilevate anche dei profili di tipo penale. Ecco, era in questo senso la nostra richiesta al Ministro, era stata motivata in questo senso, cioè noi avevamo proprio chiesto questo, cioè di chiarire che queste sanzioni ci sembravano francamente esagerate, soprattutto perché perlomeno gli utenti che si erano rivolti alla nostra associazione, ma ci era sembrato chiaro, erano stati fatti moltissimi interventi anche dalla stampa, che non c'era stata una volontà, come dire, di percepire indebitamente un importo, trattandosi peraltro di un importo non elevato, quindi voglio dire, era Sì, abbastanza non evidente è che si era trattato di un elevato, errore. però Ecco, se a metà estate ti arriva la richiesta di restituirli seduta stante, magari qualche famiglia in con la difficoltà ci possibilità va. magari di altre 3.000 euro di sanzioni, quindi insomma la cosa era sicuramente, aveva destato preoccupazione e ci era sembrato giusto stigmatizzare il fatto che l'amministrazione dello Stato deve essere più chiara, soprattutto l'amministrazione delle finanze, nelle sue richieste ai cittadini, visto che già non lo era stata la comunicazione di questa offerta del bonus bebè, perché magari andava precisato il netto, il lordo del reddito, o comunque magari andava gestita forse in maniera diversa all'epoca. Sicuramente la lettera di giugno e luglio aveva preoccupato moltissime persone, quindi ci Infatti. sembrava giusto che venisse fatto una rettifica.